chi è? Allo? Federico Rampini? Sì, chi è? Sono Roberta Giordano di Radio 24. Ci sei allora sabato? Non ci sono più le mezze stagioni? Sì, sì, sì, confermo. Va bene, alle 14 allora, ti aspetto. Ciao Federico. D'accordo, va bene, ciao. Ciao, grazie, ciao. Era un po' sussurrante Federico Rampini, evidentemente in mezzo a una riunione lì a New York. Comunque ha confermato, sabato c'è. E lì naturalmente aspetto anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, a Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.